passiamo alla terza parte, che secondo il nostro linguaggio dovrebbe corrispondere al dolce alla frutta, cioè qualcosa di meno impegnativo e insomma che si può ascoltare con più facilità. Ed è ancora un altro capitolo della vita del santo curato d'Ars, diciamo poco impegnativo per modo di dire, perché in effetti se noi davvero volessimo imitarne le virtù sarebbe altro che impegnativo. Comunque questo capitolo si intitola Conquiste del bene e opere di apostolato. Dunque bisogna sapere subito che se queste persecuzioni che lui soffrì, abbiamo visto l'altra volta, gli vennero da persone ignoranti, cieche, perverse, però dobbiamo dire che queste persone erano un numero esiguo, ma il santo curato d'Ars soprattutto era circondato da persone buone. E nella sua parrocchia di Ars egli vide fiorire anche tanti, tanti fiori di innocenza e di pietà, che non erano né senza bellezza né senza profumo. E a questi fiori il santo curato d'Ars si dedicò con amore per coltivarli e aumentarli. Sapete che il curato d'Ars aveva già pensato fin dall'inizio di farsi aiutare da una elite di persone che fossero già buone e che lui portasse maggiormente avanti sulla via della santità, per cui fossero degli ottimi, dei validi collaboratori. E quindi intuì il curato d'Ars che il mezzo più importante, più forte, per elevare le anime rimane sempre la devozione eucaristica, e puntò molto su questo elemento per rinnovare la sua parrocchia. Cominciamo a vedere quello che fece la contessina di Ars, la quale era una cristiana eccellente, di grande carità, però non si può dire che fosse abbastanza fervorosa. Aveva una pietà ancora rigida, austera, e essendole mancato fino a quel momento una guida illuminata e sicura. Però col curato d'Ars cambiò totalmente metodo e soprattutto si avvicinò molto alla devozione alla pietà eucaristica. La contessina di Ars tutte le mattine, con ogni tempo anche con la neve, si recava in chiesa per la Santa Messa. Non usava la carrozza perché diceva: preferisco i soldi usarli per altri scopi, per vestire e nutrire i poveri, piuttosto che per comprare la carrozza. E poi ogni sera faceva ancora ritorno alla chiesa per visitare il Santissimo Sacramento. Ma sappiamo che tante altre persone seguirono il suo esempio. Per esempio la famosa vedova Renard, che abitava vicino al santo curato, che era madre di un sacerdote. Un'altra donna, che era vestita sempre di nero, che tutti credevano una suora. E altre persone ancora. E poi tutte quelle giovani che egli riunì nella confraternita del Rosario. Ecco, tutte quante furono attirate alla pietà eucaristica. Sentiamo cosa dice. Così, dal 1825, prima ancora del grande concorso di pellegrini, oltre il santo che passò, possiamo dire, tutta la sua vita davanti al Santissimo Sacramento, vi furono sempre nella chiesa di Ars delle persone in preghiera. Non mi ricordo di esservi mai entrato neppure una volta, assicura il maestro Pertinan, senza avervi trovato qualcuno in adorazione. La maggior parte di queste persone sinceramente cristiane, che Don Vianney aveva acceso degli ardori della sua propria carità, sono morte come sante. Quindi queste anime seguivano la via mistica senza saperlo. E in queste lunghe ore passate davanti al tabernacolo non dicevano nulla, dicevano pochissime parole, però si sentivano tanto felici di essere davanti a Gesù. Ecco, dobbiamo ricordare anche un personaggio che passò alla storia nella vita del santo curato d'Ars, un uomo, un contadino, un uomo che per primo seguì l'esempio di tante altre donne e era già iscritto alla confraternita del Santissimo Sacramento, però fino a quel momento, fino a quel giorno non si era mai distinto dalla folla, si accontentava di avere in mano un cero seguendo le benedizioni e le processioni. Però era un uomo di profonda fede e avrebbe voluto fare molto molto di più. Ascoltiamo cosa dice lo stesso curato. In parrocchia viveva allora un uomo morto ormai da alcuni anni. Entrato un mattino in chiesa per recitare le sue orazioni, prima di andare nei campi a lavorare, lasciò la zappa fuori della porta e davanti a Dio si dimenticò del passare del tempo. Un vicino che lavorava presso il suo campo e che era solito vederlo al lavoro fu meravigliato della sua assenza e dal ritorno volle entrare in chiesa, sospettando che fosse proprio là. Difatti lo vide subito, gli si avvicinò e gli chiese: «Che fai qui da tanto tempo?» E l'altro rispose: «Io guardo il buon Dio e il buon Dio guarda me». Il santo amava ripetere questo fatto e lo faceva sempre con le lacrime. Dopo il racconto aggiungeva: «Egli guarda il buon Dio e il buon Dio guarda lui. Sta tutto qui, miei cari». Bellissimo, quindi quest'uomo, questo contadino che aveva lasciato la zappa fuori della chiesa, già conosceva le vie della vita mistica. È un fatto molto simile a quell'altro che viene narrato nella vita di Domenico Savio, come sapete, che rimase molte ore davanti al tabernacolo senza neppure accorgersi che passava il tempo. Poi Don Bosco andò a rintracciarlo quando già era passata anche l'ora di pranzo. Comunque adesso parliamo di un'altra cosa. Cosa fece il curato d'Ars per attirare verso Dio, verso la Chiesa, giovani e uomini? Si direbbe che è un problema più che mai attuale, moderno. Anche qui puntò molto sull'Eucaristia. Ecco, vediamo cosa dice degli uomini e dei giovani. Miei fratelli, anche gli uomini hanno un'anima da salvare, come le donne. Sono i primi in ogni opera, dice il curato d'Ars, perché non devono essere i primi anche a servire Dio e a rendere omaggio a Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento dell'altare? La devozione stessa, attraverso il loro esempio, ha più influenza. E non dimenticate, aggiungeva, parlando a questi membri dell'Associazione Eucaristica, che come confratelli siete obbligati a condurre una vita più perfetta degli altri cristiani. Ecco, però dobbiamo dire subito che il santo curato d'Ars, coi giovani, con gli uomini, guarda caso, non ottenne quel successo che si prometteva. E forse di questo mancato successo era causa anche il suo stesso zelo, che richiedeva troppo in un terreno non ancora preparato. Per cui non riuscì subito a condurli, diciamo, alla visita quotidiana del Santissimo Sacramento, secondo quanto aveva scritto negli statuti della confraternita. E lo possiamo capire, queste persone erano tutti contadini e quindi tutta la giornata la passavano nei campi. Ecco, però ottenne anche un altro risultato, mi pare molto lusinghiero, cioè questi uomini, questi giovani iscritti alla confraternita, seguivano la messa domenicale con un contegno particolarmente devoto e attento, e questo era certo un esempio che trascinava molto. Poi inoltre ottenne anche una cosa davvero notevolissima, che dopo i vespri del pomeriggio alcuni uomini e giovani stavano un'ora davanti al Santissimo Sacramento esposto. Mi pare che non fosse proprio un risultato trascurabile. Bene, organizzava il curato d'Ars con grande cura e con grande solennità la festa del Corpus Domini. E il primo anno, dato che era appena arrivato, non fece in tempo a fare tutte le cose come voleva lui. Ma già dal secondo anno, 1819, la festa del Corpus Domini ebbe una solennità straordinaria. Lui stesso era andato ad acquistare vestiti bianchi per i fanciulli della parrocchia e lui stesso li aiutò per la prima volta a indossarli, dicendo: «Su ragazzi, pensate che siete davanti al Signore, che tenete il posto degli angeli». E i fanciulli furono molto contenti di fare questa parte durante la processione, la parte degli angeli. Ecco, invece gli uomini a quanto pare erano molto impacciati anche solo a tenere in mano quella candela dietro il baldacchino. Ecco, e a quanto pare nei primi anni gli uomini avevano ancora molto rispetto umano e ce ne volle molto di tempo per scuotersi di dosso questo rispetto umano. Notiamo che a questa confraternita del Santissimo Sacramento, che era eretta solo per gli uomini, si unirono poi donne e ragazze, e le quali naturalmente furono più premurose. E fatto abbastanza curioso, nella confraternita del Santo Rosario, che era invece per le donne, si iscrissero anche giovani e uomini. Ecco, questo dimostra come il curato d'Ars non fosse affatto un tipo col parocchi, ma era un uomo molto aperto a tutte le esigenze. Poi dobbiamo adesso parlare di un altro argomento. Cosa fece il curato d'Ars per cristianizzare le famiglie? Sappiamo che a quell'epoca, purtroppo, la rivoluzione francese aveva lasciato un segno molto negativo nelle famiglie, per cui la preghiera si era molto molto diradata, per non dire annullata quasi completamente. Allora il curato d'Ars cosa fece? Diceva, certo non posso subito ottenere che questa gente partecipi alla messa ogni giorno, durante i giorni feriali, però almeno posso ottenere che recitino le preghiere in famiglia, mattino e sera, e poi che alla fine della giornata passino un momento in chiesa prima del riposo della notte. Ecco, e ci volle molto per ottenere queste due cose. Anzitutto per ottenere che nella famiglia tornasse a regnare questa abitudine di pregare tutti insieme in comune. Però a quanto pare il curato tanto fece e tanto pregò che ottenne davvero dei risultati molto lusinghieri. E poi il passo fu naturale, dalla preghiera in comune nelle famiglie passare alla preghiera in comune di tutta la parrocchia, per cui da un certo punto in poi ogni sera al richiamo della campana la grande famiglia parrocchiale si incamminava verso la chiesa per recitare il rosario e la preghiera della sera. Però il curato d'Ars non fu ancora contento di questo risultato e si sforzò di far fare altri passi avanti a questa gente. Per esempio consigliava, prima di coricarsi, di fare un bel esame di coscienza e di fare anche una breve lettura spirituale, almeno d'inverno, per imprimere più profondamente nei cuori le verità dell'eterna salvezza. E a questo proposito il curato d'Ars ebbe una grande intuizione, l'intuizione che i contadini, pur essendo occupati in questi lavori campestri e fra mestieri manuali, tuttavia non erano affatto incapaci di vera vita interiore, anzi erano molto agevolati a un tipo di vita contemplativa dal fatto che erano sempre a contatto con la natura, che è il miglior libro di Dio. Quindi lui ha cercato di iniziarli ai segreti della meditazione e della preghiera. Sentiamo cosa dice queste brevi parole. Miei fratelli, non sono nelle preghiere lunghe né le preghiere belle che Dio preferisce, ma quelle che vengono dal cuore. Nulla vi è più facile e più consolante che pregare il Signore. Adesso vediamo quest'altro pezzo di predica molto significativo a questo riguardo. Quando si ama qualcuno, non si ha bisogno di vederlo per pensare a lui. Così se noi amiamo Dio, la preghiera ci diventerà familiare come il respiro. Ah, come mi piacciono queste parole dette al mattino. Oggi voglio fare tutto, soffrire tutto, per glorificare Dio. Niente per il mondo, per l'interesse, ma tutto per piacere al Signore. Così l'anima si unisce a Dio, non vede che Lui non agisce che per Lui. Diciamo spesso, mio Dio, abbiate pietà di me, come il bambino dice alla madre, dammi la mano, dammi il pane. Quando abbiamo un qualche peso da portare, pensiamo subito che seguiamo Gesù Cristo, che Lui porta la croce, ed uniamo le nostre pene alle pene del Divin Salvatore. In quella regione si sentiva ancora molto forte l'influenza della rivoluzione francese, per cui in molti paesi non c'era neanche più il prete, non c'era neanche più la chiesa. In molti paesi erano stati abbattuti perfino i campanili dal rappresentante dell'imperatore, no? E questi campanili non erano mai stati più ricostruiti. Allora si pensò di fare una cosa molto importante, di indire corsi di missioni al popolo, e lo fecero i certosini di Lione. Naturalmente non potevano farlo da soli perché erano in pochi, allora si facevano aiutare, soprattutto nelle confessioni ma anche nelle predicazioni, dal clero in cura d'anime della zona. E anche Don Vianney fece la sua bella parte, la sua bella figura in queste missioni nei dintorni di Ars, sia nell'ufficio di confessore ma anche nell'ufficio di predicatore, sia seguendo l'ordine del suo vescovo, come anche semplicemente un invito di un confratello. E si dice che i preti che lo videro all'opera, dapprima avevano forse potuto dubitare della sua scienza, del suo ingegno, ma non tardarono ad avere di lui la più alta stima. La sua vita austera, la sua viva pietà e, chi lo crederebbe, anche la sua pur semplice eloquenza finirono per attirargli la confidenza, se non l'ammirazione, di tutti. Ecco, possiamo ricordare la famosa missione di Trevoux, che è un paese abbastanza vicino ad Ars, e lui era sempre in confessionale e dove stava lui a confessare c'era sempre molta gente, e aveva preso alloggio presso una persona, un conoscente, il quale lo aspettava tutte le sere invano per la cena, e per parecchi giorni di seguito, passata la mezzanotte, quest'uomo che lo ospitava dovette andarlo a cercare in chiesa e lo trovava sempre occupato nelle confessioni. Sentiamo come si è conclusa questa missione di Trevoux. La notte precedente la chiusura della missione ci fu una tale folla attorno al suo confessionale che per poco nelle dispute per la difesa del proprio posto non furono rovesciati confessionale e confessore. Fu il solo ricordo di Trevoux che Don Vianney si permise di raccontare e ne rideva allegramente, nascondendo ad arte il grande concorso di gente avida della sua direzione e le conversioni dovute al suo zelo. Quindi in pratica facevano a pugni per andarsi a confessare dal curato d'Ars. Mi pare che sia l'esempio più significativo per capire chi era il curato d'Ars e come era amato e stimato dal popolo. Si racconta che durante questa missione ci furono anche dei personaggi altolocati che andarono a confessarsi dal curato d'Ars, per esempio il sottoprefetto e il presidente del tribunale. Però il curato li trattò esattamente come gli altri, senza fare nessuna preferenza, e poi queste autorità parlarono molto bene del suo modo di confessare, anche se ebbero una leggera critica sulla sua eccessiva severità. Ecco, si dice che a quei tempi era usanza, al termine delle missioni, una cerimonia nella quale i sacerdoti, alla presenza dei fedeli, rinnovavano gli impegni assunti nel giorno della ordinazione. E a Trevoux fu proprio lui, Don Vianney, incaricato di presentare il libro dei Vangeli a ciascun confratello sacerdote con la domanda rituale: «Credi al Vangelo di nostro Signor Gesù Cristo?» E loro rispondevano: «Credo». E dice che lo fece con tanta pietà che la sua espressione, il suo tono di voce produssero in tutti i sacerdoti una profonda impressione. Ecco, una volta, quando partecipò a un'altra missione a Saint-Rivier, la popolazione di Ars fu scossa da una notizia sensazionale. Il curato d'Ars, il nostro curato, è morto. È morto di fatica nel confessionale. Una voce che fu subito smentita, però non era senza fondamento. Dato che era successo così, che lui, partito digiuno da Ars per questo paese, abbastanza lontano, nel viaggio si era smarrito per la neve e si era stato raccolto privo di sensi. E questa volta, per confessarsi dal curato d'Ars, bisognava partire molto per tempo, bisognava partire a notte fonda e bisognava rimanere talvolta fino a mezzogiorno e anche oltre. La chiesa era freddissima. Gli portarono uno scaldino, uno scaldapiedi, lui lo accettò volentieri, però poi regolarmente lo mise da una parte. Adesso sentiamo cosa è successo nelle missioni di Montmerle nel 1826. A Montmerle, durante il giubileo del 1826, non vi era posto sufficiente alla canonica ed egli fu alloggiato in casa de Mondesert, in via dei Minimi, vicino alla chiesa, dove vi era una veneranda sessagenaria che adempiva le funzioni di sagrestana senza alcuna retribuzione. Appena sistemato il curato d'Ars, pregò segretamente la sua domestica di fargli cuocere una marmitta di patate e di portarle nella sua camera. Dopo il giubileo, il parroco di Montmerle andò a ringraziare la sua benevola parrocchiana con l'intenzione di ricompensarla sia per le spese sostenute in favore del suo pensionato. «Oh, signor parroco, per un paio di coltri non c'è di che. Ma gli avete dato anche da mangiare, alla canonica non è venuto. Qui non ha mangiato nulla, veniva solo per cinque minuti a mezzogiorno». A questo punto la domestica raccontò la storia della marmitta di patate. Saliti nella sua camera si trovò la marmitta vuota ben nascosta nel caminetto, e allora si comprese che il curato Dars, nei 10 giorni passati a Montmerle, quasi senza lasciare la chiesa, non si era cibato di altro che di quelle patate. Il parroco di Montmerle domandò informazioni in paese. Il suo santo confratello non aveva ricevuto nulla per altra via. Adesso suona la mezzanotte, carissimi, dobbiamo proprio concludere questa nostra lunga fatica da parte nostra di parlare, da parte vostra di ascoltare. Spero che non sia fatica inutile da nessuna delle due parti. Ecco, però è bello ancora raccontare questi due episodi capitati durante appunto le missioni dei dintorni. Ecco, questo episodio riguarda le 40 ore di Limas. La raccontava più tardi il nostro santo, mi hanno giocato un bel tiro. Io mi scusavo dapprima di non poter accettare, sentendomi incapace di parlare ad un auditorio distinto. Ma il parroco insisté, spiegandomi che si trattava di una parrocchia di campagna, e finì così per accettare. Ma quale non fu la mia meraviglia quando, entrando nella chiesa, vidi il presbiterio pieno di preti e la chiesa stipata di persone di ogni condizione. Mi lasciai dapprima impressionare, ma poi cominciai a predicare sull'amore di Dio e pareva che non andasse male. Piangevano tutti. E infine il curato Dars, quando deve prestare questi servizi nelle parrocchie dintorni, però naturalmente non dimentica la sua parrocchia e spesso ritorna alla sua parrocchia a piedi, anche per delle ragioni non neanche tanto importanti. Spesso però il sindaco vuole che suo figlio lo accompagni in queste lunghe camminate di chilometri e chilometri. Sentiamo cosa dice il figlio del sindaco Antonio Mandi circa questo accompagnamento che faceva del curato Dars. Anche fra la neve e col freddo dell'inverno di raro seguivamo la via migliore e più corta, perché il curato aveva sempre qualche ammalato a cui portare le consolazioni del suo ministero. Il percorso però non mi parve mai lungo, perché il servo di Dio sapeva renderlo attraente, raccontando fatti pieni di interesse della vita e dei santi. Se qualche volta facevo notare il freddo intenso o le difficoltà delle strade, aveva sempre pronta questa risposta: «Amico mio, i santi hanno sofferto ben di peggio. Offriamolo allora al Signore». Finite queste conversazioni spirituali, si recitava il rosario. Conservo tuttora il ricordo edificante di quelle sante conversioni. Concludiamo, carissimi. Vi ringrazio per la vostra pazienza nell'ascoltare. Spero proprio che la Madonna abbia esercitato la sua potenza nei vostri riguardi, come l'ha esercitata nei nostri qui dallo studio. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.